sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. I documenti sono tutti nel vano all'interno dell'auto. Troverete tutto, ci disse Vincenzo. E fu così che ci ritrovammo proprietari di una rombante Fiat 500 del 1970, di colore bianco, targata Bolzano. Sono Paola, sono piemontese e vivo a Lussemburgo con mio marito e mio figlio. La mia passione è cantare, adoro cucinare per la mia famiglia e i miei amici e amo le colline del Roero, la mia terra di origine. Sono babbo! E ti muovo, te la tengo giù. Vai. Ma senza dilagare. Vai, vai. Eccola qua, è partita. Abbiamo digitato su YouTube accensione 500 e abbiamo trovato questo video in cui c'è una 500 che viene riaccesa dopo 16 anni e quasi al primo colpo parte. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e voi siete qui. Voi siete qui, è il programma, e voi, io sono Matteo Caccia e voi siete qui. Oggi raccontiamo una storia, come avete sentito, come facciamo tutti i giorni, che è la storia di Paola, che però parla di un oggetto che appartiene di fatto alla vita di moltissimi italiani, perché in qualche modo tutti, soprattutto quelli che appartengono a una generazione dalla mia in su, cioè da 40 anni in su, hanno avuto a che fare con quel mezzo di trasporto lì, con una 500, perché ce l'aveva un familiare, perché ce l'aveva un amico, perché ce l'aveva l'amico di un amico. Ecco perché oggi la puntata di oggi potrebbe intitolarsi la 500 della vostra vita. 349 238 6666, oppure il profilo Facebook è Voi Siete Qui R24, Radio 24, perdonatemi, o il profilo Twitter che è Voi Siete Qui R24. Su Twitter già è arrivato un messaggio che dice, di Paolo, dice: la 500 di mio padre con le portiere ad apertura controvento, perché probabilmente all'inizio venivano fatte così. Sergio: io ne ho 5, tutte auto d'epoca ovviamente, perché così paghi meno di bollo di assicurazione. Una con il motore potenziato e le ruote maggiorate, in pista fa 220 km all'ora. Bene Sergio, è esattamente delle persone come te che abbiamo bisogno oggi, perché io ho un'antica passione, più che una passione, è una cosa che uso per rilassarmi, è cercare vecchie cose su internet, cioè vecchie cose di seconda mano. Dopo aver venduto tutto qualche anno fa, cerco di ricomprarmi tutto di seconda mano, e tra queste cose devo dire c'è la 500. Non che io abbia intenzione, lo dico a mia mamma: mamma, non ti preoccupare, non ho intenzione di comprare una vecchia 500, basta quella del nonno, di cui già parlerò durante questa puntata, è bastata quella. Però se andate su, se cercate 500 usata, 500 epoca usata, se no rischiate di trovarne una di queste nuove carine, però non sono la stessa cosa, trovate un mondo, ovviamente, come il mondo delle auto d'epoca o delle moto d'epoca. Guarda qua, ad esempio, Fiat 500L, sono uno dei qualunque siti di annunci che trovate online, completamente restaurata, vendo a malincuore, e già li amo quelli che vendono a malincuore, perché, capito, ti stanno comunicando che stanno facendo fatica. Auto d'epoca, 500 lusso del 69, completamente restaurata sia nella carrozzeria che nella meccanica, motore, frizione, freni, gomme, borchie, fondi, sportelli, marmitta, tappezzeria, capottina, tutto perfetto. Da amatore ho speso circa 6.400 euro, la vendo a 4.999 trattabili. Ora, come ti chiami? Non c'è il tuo nome. Come posso crederti? Come posso crederti che hai speso 6.400 euro e ne vuoi solo 5.000? Andiamo avanti, ce n'è un'altra, auto in buone condizioni, questo è poco. Eccolo qua, Fiat 500L epoca, vendo per conto di un amico, totalmente restaurata, circa 2 anni fa, da esperto carrozziere del settore, pronta a qualsiasi prova, perfetta in ogni dettaglio, causa cambio progetto? Ah certo, perché questi sono quelli che fanno i progetti, cioè che prendono la 500 e la vogliono restaurare e poi dico: aspetta un attimo, vado su una Fulvia Coupé forse, oppure prendo quella vecchia BMW della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, lui cambia progetto, la vende, targata Bergamo, prezzo leggermente trattabile, 6.200. Comunque i costi, vabbè, ovviamente come sempre succede, la roba usata, i mezzi usati al sud costano di meno, tipo Frosinone 2.500 euro, Padova 7.400, Salerno 3.200, Modena 10.500. andate a comprare una 500 al sud e poi portatela in Lussemburgo come ha fatto Paola. 349-238-6666, prima di cominciare a raccontare la storia della sua 500, che lei chiama il cinquino, l'ultimo messaggio che arriva: mio zio ne aveva una rosa, Serenella, aveva fatto verniciare rosa per sua moglie, che poi l'aveva mollato, e quando tutti gli dicevano ma riverniciala sta macchina, lui diceva no, la tengo rosa per ricordarmi quanto sono stato stolto. 349-238-6666, la storia di Paola e del suo cinquino. Eravamo seduti sotto il portico, Massimo, Vincenzo ed io, lo sguardo rivolto verso le nostre dolci colline, quando Vincenzo esordì: sai Massimo, mi è sempre più difficile prendermi cura del cinquino. Ogni anno lo riprendo dopo l'inverno e c'è sempre qualcosa da sistemare. Non avrei mai pensato di venderlo, ma ho riflettuto e sei l'unica persona a cui lo cederei. Come tirarsi indietro? Non era una semplice proposta, era di più. Era una manifestazione di amicizia e di stima. I personaggi della storia sono Massimo, mio marito, e Vincenzo, un amico di famiglia, un amico di mio suocero. La vettura, il cinquino, una 500, era nota a tutti in paese. Come tutti conoscevano almeno di vista Vincenzo, il proprietario, un vecchio amico di mio suocero. Era un signore d'altri tempi, distinto, elegante e brillante. Dirigente di industria in pensione, ormai ultra ottantenne. Appassionato cacciatore. La consegna del cinquino avvenne senza troppe formalità. Il prezzo fu concordato in fretta e presto la vettura ci venne consegnata. I documenti sono tutti nel vano all'interno dell'auto. Troverete tutto lì, ci disse Vincenzo. Fu così che ci ritrovammo proprietari di una rombante Fiat 500 del 1970, di colore bianco, targata a Bolzano. Fu ripulendo l'interno un po' malconcio della vecchia auto che scoprì, sotto un portadocumenti impolverato, un cartoncino verde ripiegato, che a malapena si distingueva dal fondo dello scomparto portaoggetti. Sul foglio c'era una data, il 6 luglio del 2001, e un titolo: Saluti al Cinquino. All'interno, in bella scrittura, l'addio di Vincenzo alla sua mitica auto. Cinquino, addio, scriveva. Dopo tanti, tanti anni insieme, con il bello ed il cattivo tempo, la pioggia, la neve e la grandine, ci dobbiamo lasciare. Sul sedile posteriore hanno via via trovato posto caprioli, camosci, volpi e tante lepri. E poi i miei cani più cari, dalla Linda a Lilli, Jager, Mirko, Laika, Bella e tanti altri rapidi. Sul sedile anteriore tanti amici cacciatori, qualcuno in paradiso, Peter, Franz, Alain, Arrigo. Cacciatori che ancora oggi ti ricordano quando ci trasportavi su in alta quota, oltre i 2000 metri dal corno del Renon a Malgarivago sulla Forcella. Addio, cinquino. Il tuo nuovo padrone ti tratterà bene. La lettera la trovai facendo la classica pulizia nella macchina, proprio per caso, perché era anche molto, molto nascosta, era sotto tutti i documenti. C'erano vari documenti anche molto vecchi, perché la macchina è del 1970. E Vincenzo la datò la lettera proprio prima di consegnarci la macchina. Dopo qualche mese Vincenzo ci lasciò ed io lo salutai per l'ultima volta in una fredda mattina d'inverno. Il cinquino non poteva essere diversamente, è diventato un po' uno di famiglia. Lo abbiamo curato e sistemato. Ci ha seguito nei nostri spostamenti ed ora fa le sue sporadiche uscite, con il motore brillante come sempre, per le vie di Lussemburgo, città dove ora viviamo. Non possiamo più permetterci lunghi spostamenti con il cinquino, però è bello viaggiare lì sopra. Un po' stretti, tutti e tre. Il cinquino passa, la gente si volta a guardare. Spesso sorride, a volte saluta. Siamo fieri del nostro cinquino, proprio come lo sei stato tu. Ciao Vincenzo. Sul topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sul topolino amaranto si va che l'incanto nel 46. sorridente Paola nella foto che ci ha mandato, trovate sul nostro sito. Ovviamente è in un posto che non sembra Lussemburgo, direi, sembra più un posto forse della campagna piemontese. È estate, c'è il cielo azzurrissimo, fa venire invidia in questo momento dell'anno. Le piante sono verdi, lei ha su un abitino smanicato tutto a fiori, c'è un bel sole che sembra al tramonto e sorride. Pronto Paola, buongiorno. Ciao Matteo, come stai? Io sto bene, tu come stai? Tutto bene, grazie, benissimo. Noi ci siamo già sentiti l'anno scorso, giusto? Era settembre, esatto, della stagione scorsa del 2013. Esatto, sempre da Lussemburgo. Sempre da Lussemburgo, infatti, senti, ce l'avevi raccontato, ce lo ricordi però brevemente, perché siete lì per il lavoro di tuo marito, giusto? Esatto, esatto, siamo arrivati qui nel 2009, quindi sono già 5 anni, siamo residenti a Lussemburgo e appunto è stato motivo di spostamento di lavoro. Certo, e com'è la vita a Lussemburgo oggi? Si sta bene, a me piace molto, è una città molto vivibile, soprattutto per crescerci un figlio, per vivere, siamo in famiglia. E, quanti anni ha tuo figlio? 11 anni. Ok, quindi fa le medie. Fa le medie. E va in una scuola italiana o internazionale? Va nella scuola europea. E quindi lui è nella sezione italiana, per cui i suoi compagni di classe e la sua maestra sono italiani, i suoi professori adesso sono italiani. però parla chiaramente tedesco. Sì, parla molte lingue, fanno inglese come seconda lingua ogni giorno, quindi è già a un discreto livello per avere 11 anni, poi parla francese perché è un po' la lingua di comunicazione locale. Quindi si parla anche tedesco però in Lussemburgo? È la seconda lingua, la seconda, locale, okay. Sì, esatto. Poi c'è il lussemburghese che è una lingua locale che insomma noi non parliamo. è abbastanza poco conosciuta. Invece, tornando alla storia, quando la apri dicendo che state guardando le vostre dolci colline, ci riferiamo a quale zona dell'Italia, immagino? Del Roero, in Piemonte, il Roero, provincia di Cuneo, vicino ad Alba, per intenderci, e io la foto che ho messo, che ci hai mandato, è proprio davanti a quel portico dove spesso ci sedevamo con Vincenzo, con sua moglie, con mio marito Massimo, e lì nacque appunto il passaggio di consegne. Ma era il 2001, quindi erano un po' di anni fa. Esatto. Era insomma 2001. Quasi 14 anni fa. E però ve la siete portati in Lussemburgo il cinquino. Cioè, mi piace. Io ci ho messo un po' a capire cosa fosse il cinquino, nel senso che non era scontato che fosse proprio una 500. Poi alla fine. Vincenzo la chiamava così. Ah, okay. In realtà noi la chiamiamo la 500, cioè in dialetto. In piemontese, certo, ovviamente. E ve la siete portati in Lussemburgo, spero, su un camion, cioè non ci siete. Sì, ah no, il viaggio in Lussemburgo sarebbe stato impossibile. È venuto in un secondo momento perché siamo stati in un anno in una casa d'affitto. Poi quando abbiamo avuto la casa nostra abbiamo portato dal Roero il gatto e la 500. Ok, tutto insieme. Ed è vera questa cosa che dici, che la gente, che stai più simpatico alla gente quando sei su una 500? Ma sì, in genere tutti guardano, sorridono, perché facciamo un po' anche insomma tenerezza, sono mio marito è molto alto, fate tenerezza, nel senso che guarda, poveri questi italiani, capito, vengono dall'Italia, pensa come sono messi, vengono dall'Italia e non possono neanche permettersi una macchina nuova. Diciamo è a metà tra questa invece l'idea romantica del ah che sì, bella l'Italia, bello, e sì, guarda, esatto. me lo diceva poco tempo fa un tizio che ho contattato per comprare un vecchio furgone, vabbè questa è un'altra storia, e lui per convincermi a comprarlo mi ha detto è tenuto benissimo, il motore è perfetto e poi quando lo guidi la gente ti sorride, e quello gli devo dire è stato uno dei motivi per cui sono quasi convinto a prenderlo. Paola, io ti ringrazio moltissimo per la storia e per la chiacchiera e buon proseguimento in Lussemburgo, ovviamente. Tu stai lavorando oppure sei a casa, fai altro per la famiglia? No, in questo momento sono in vacanza. Ok, ok. Goditela tutta, sì, allora. Grazie mille. Grazie mille. Grazie, ciao Paola, a presto. Un bacione a tutti, ciao. Ciao, ciao. Mio nonno aveva una 500. Credo che questa fase possa dirla forse chiunque, non chiunque, ma moltissime persone in Italia. Mio nonno, o mio padre, o mia zia, o mia suocera avevano una 500. In Italia tra il 1957 e il 1975, anno in cui è uscita di produzione, sono state prodotte esattamente 3.893.294 Fiat 500, quasi 4 milioni di automobili. E hanno smesso di farla proprio l'anno in cui sono nato io, nel 75, questo è meno importante, però soprattutto dopo 18 anni di produzione. È diventata grande e hanno deciso che era finita la sua epoca. Io ricordo solo un oggetto blu con i sedili marroni chiaro. Ricordo le due levette che mio nonno sollevava per accenderla e che facevano quel rumore inconfondibile. Quello che ricordo bene però è mio nonno alla guida della sua 500 blu, con la sua testa semipelata, i baffi ordinati da hipster che ha fatto però la Seconda Guerra Mondiale. E mio nonno era una persona coscienziosa, però con una vena di follia nascosta. Era uno che guidava praticamente la sua 500 a 50 all'ora, ma insultava quelli che lo sorpassavano, perché chissà che fretta avevano. Mi portava in campagna dove aveva un piccolo orto recintato con un ciao bianco, tenendomi in piedi sul bredellino e facendomi guidare, solo che avevo 10 anni. Da ragazzo era stato in Libia ed era tornato grazie alla scheggia di una granata in una mano che lo aveva reso parzialmente invalido, ma almeno sano e salvo. Raccontava barzellette, cantava all'occorrenza. Mia nonna diceva che era un po' spilorcio, però non ha mai mancato di fare regali a mia mamma o a me, a mia sorella. Una sera mia nonna lo recuperò in un bar, stava ballando su un tavolo, quando aveva detto che usciva e tornava subito a casa. Questo fanno le vecchie auto. Le vecchie auto che sono appartenute a persone care. Ci permettono di ricordarci chi erano i loro proprietari. Ecco perché forse sorridiamo alle vecchie 500 che vediamo passare per la strada. Perché anche se non era l'auto di nostro nonno o di nostra mamma, ci ricorda qualcuno a cui abbiamo voluto bene. Alla fine, dalla storia di Paola, ho capito che, primo, il cinquino è il nome improprio della 500. Secondo, scrivere una lettera di addio al proprio mezzo è una cosa molto romantica. Terzo, anche se lui non era un cacciatore, Vincenzo mi ricorda molto mio nonno. Quarto, dovrebbero fare ancora un'auto che si accende con le levette. Quinto, devo cercare online un vecchio cinquino usato. È un altro capodanno, un altro carnevale, un altro Ferragosto e ancora un altro Natale. La prima comunione, il primo funerale, la festa del paese, la morte del maiale. Si può nascere un'altra volta. E comunque nel tempo di Bruno Rissassi ho fatto una ricerca veloce e il cinquino blu uguale a quella di mio nonno l'ho trovata, eh. Sta a Bergamo, chiede 4.800, che è un prezzo fuori dal normale, però è trattabile, ma l'ho scelta, diciamo, nei miei sogni. Mamma, sempre nei miei sogni, non compro una 500, non lo farò mai, o perlomeno non a breve. L'ho scelta perché sul cofano davanti ha un adesivo che ho scritto "davanti a tutti". Pensate, andare in giro una 500 blu agli interni rossi, così davanti a tutti. 349 238 6666. È arrivato un messaggio, ne sono arrivati diversi delle 500 della vostra vita, ma tra queste è arrivata quella di Antonella che dice: mio padre ne aveva una bianca, era il medico del paese e quindi anche quando lo usavo io potevo passare con il semaforo rosso perché nessuno diceva niente, perché tutti dicevano ah no, l'El Dutour. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, stiamo arrivando verso la fine dell'anno. Io vi ricordo che se avete voglia e se avete tempo scaricatevi i podcast del programma che sono online, quindi avete magari qualche oretta in più e potete ascoltarveli tranquillamente. Se avete voglia, come abbiamo detto già in altre puntate, scaricatevi anche gli ebook che sono sempre lì e sono sempre gratuiti. Passate delle buone vacanze se le state facendo, continuate ad ascoltarci, ma soprattutto continuate a mandarci storie. Voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Miriam Lucchetti, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Paolino Corleoni, grazie soprattutto a Paola, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Diego, vivo a Lione e la storia di domani è la mia. E parla di un cenone di Natale passato in un camper scalcagnato che cadeva a pezzi sotto un diluvio universale. Questa è la mia storia e io sono qui.